18. Le carcasse spolpate di un fagiano e 10 pernici giacevano su un vassoio d'argento, al centro della tavola circolare. C'era qualcosa di sinistro nell'insieme degli avanzi. La disposizione ordinata degli ossi sul piatto richiamava una lucida brutalità. La testa del pennuto più grosso occhieggiava in direzione sud-est, come a rimpiangere una rotta migratoria verso miglior sorte. Gli altri scheletri attendevano inerti l'inumazione tra le fauci dei gatti, sul retro del club. Il cameriere sollevò il vassoio e allontanò dalla vista dei commensali i resti macabri della cena. Quindi tornò dalle cucine con una bottiglia di vino di Porto, che gli ospiti rifiutarono di farsi servire, allontanando l'uomo con un gesto ospiccio. Presero a riempire i calici da sé, con dosi generose. «Stavate dicendo, signor Whitebread», disse il gentiluomo seduto a nord, «che il principe dei selvaggi si è rifiutato di baciare l'anello di sua maestà». Un uomo, dall'aria giovanile, con la parrucca nera si schiarì la voce. «Sarebbe più esatto dire, signore, che non l'ha fatto. Si è limitato a baciare la mano della regina». «E la vostra penna immortalerà il momento sul Courant di domani, immagino», ribatte l'altro. «Non tanto per la posterità», si inserì l'uomo seduto a ovest, «quanto per alimentare i pettegolezzi di Londra». Risero tutti, incluso Whitebread, che dovette sforzarsi per farlo. Non era mai del tutto a suo agio, in mezzo ai pezzi grossi della City. «Diteci del discorso», incalzò l'uomo a est. «È vero che ha minacciato il re?» chiese il gentiluomo sud-ovest. Whitebread scosse il capo. «Non proprio. Ha detto che tra alleati la realtà deve essere reciproca». Lanciò un'occhiata ai volti dei commensali, cercando di cogliere le loro reazioni. «E che le tribù indiane combatteranno al fianco dell'Inghilterra soltanto se il re garantirà il rispetto dei loro confini». Il signor Nord riempì di nuovo il bicchiere e passò la bottiglia. «E che mi dite dei tafferugli, signor Whitebread?» Aveva un tono insinuante. «Si ha l'impressione che da quando questi Mohawk sono in città, il clima si surriscaldi con facilità e la schiuma tracimi dai bassi fondi». Il giornalista annuì. «Un episodio singolare, davvero. Pare che tra la folla vi fossero agitatori travestiti da indiani». Si trattenne, indeciso se continuare, ma aveva gli occhi di tutti puntati addosso e non poteva ritirarsi. «Figuratevi che alla sede del giornale è stata decapitata una lettera. Il mittente sostiene di averne consegnata una identica agli emissari indiani, il giorno dell'udienza. Si firma con il titolo di Imperatore dei Mohawk di Londra». Di nuovo tutti sogghignarono, eccetto il gentiluomo Nord, quello che sembrava godere della maggior considerazione da parte degli altri. «Mohawk di Londra? Indiani di città?» sbottò incredulo il signor Est. «Ridicolo!» sibilò Nord. «Inverecondo!» aggiunse Ovest. «Miserabile!» continuò Sud-Est. «Squallido!» concluse Sud-Ovest. Poi, riponendo in tasca uno stecchino d'argento con cui si era nettato i molari, aggiunse: «Non meraviglia che i selvaggi solidarizzino tra loro. La feccia di Soho e gli scalpatori delle foreste, intendo. Cosa li distingue, in fondo?» «Il dialetto», commentò distratto il signor Nord, prima di sniffare una presa di tabacco. Risero. Whitebread alzò la voce di un tono per essere certo di farsi intendere. «Nella lettera gli indiani di Londra chiedono di essere riconosciuti come settima nazione irochese». Un rumore improvviso strozzò le risate in gola ai presenti. Il signor Nord aveva spezzato il gambo del bicchiere con la pressione delle dita. Tutti si voltarono in apprensione, ma Nord osservava distratto il piccolo taglio sul pollice. Lasciò che una goccia di sangue scorresse fino alla base del dito, come se volesse giocarci. «Avete ragione da vendere, signor Cavendish. La feccia è feccia, che si annidi nelle bettole puzzolenti delle stand sulle banchine di Boston o nelle foreste del Canada». Mostrò il palmo aperto, dove la goccia era andata a depositarsi, formando una piccola macchia rossa. «E quando la feccia si unisce, l'impero sanguina. Ricordatevi di quel tale Spartaco». Fissò Whitebread, che venne colto da una sensazione di disagio e durezza, come se la sedia fosse diventata di marmo. Gli occhi del signor Nord erano fessure, lasciavano appena trasparire un bagliore azzurro. Gli altri gentiluomini pendevano dalle sue labbra, attenti a coglierne i pensieri, forse anche a cercare di anticiparli. «Visto che a corte non se ne rendono conto», disse rivolto al giornalista, «forse qualcuno potrebbe farlo notare al pubblico, magari il nostro Panifex». «Certo, signor Whitebread», intervenne Hest, «dovreste proprio pubblicarla la lettera di questo imperatore degli indiani di città. Così la gente capirebbe la gravità di quello che sta succedendo. «State scherzando, signor Paul», sbottò Whitebread, sempre più scomodo sulla sedia. «Dare spazio sul giornale alle farneticazioni di un pazzo!» «Ditemi, signor Whitebread, chi è più pazzo?» Era di nuovo Nord a parlare. Il tono di voce calmo suonava sinistro e minaccioso alle orecchie del giornalista. «Chi reclama una nazione indiana nel cuore di Londra o chi è disposto a giocarsi l'impero pur di negare libertà di commercio alle colonie?» Erano di nuovo tutti zitti, rivolti a Nord. Il gentiluomo si puliva la mano ferita con il tovagliolo. «Il governo invita questi indiani», proseguì, «ed eccoli diventare beniamini della folla e delle gangue di strada che adesso chiedono addirittura riconoscimento. Abbiamo perfino un sedicente imperatore che alza la cresta a sfidare l'autorità legittima della corona, magari proprio come succede in America. Magari vorrebbe anche lui essere ricevuto a St. James con tutti gli onori o sedere in Parlamento». I commensali ridacchiarono compiacenti. «Le scelte sbagliate si pagano», insistette, «con la rovina politica per chi governa, in migliaia di sterline, per chi come noi, signori, produce la ricchezza della nazione». «Ben detto, sagge parole!» Whitebread finse di guardare Nord, ma in realtà puntò la poiana imbalsamata sul mobile alle sue spalle. Il giornalista seguì la linea del rostro acuminato. Occhi di vetro giallo lo fissavano con avidità. «Tafferugli», disse, «un paio di caporioni che sanno leggere e scrivere», disse ancora il signor Nord, con apparente noncuranza. «È iniziata così, anche in Massachusetts». «Sì, signor Whitebread, scrivete questo sul Courant», intervenne il signor Sud-Est, senza trattenere l'entusiasmo. «Scrivete che questi maledetti indiani portano solo guai alla città di Londra e se non stiamo attenti, la ribellione delle colonie, potremmo ritrovarcela in casa». Mentre tutti annuivano, Panifex, al secolo Richard Whitebread, stirò un sorriso di convenienza, senza trovare nulla da ribattere.